comme une petite broche accrochée sur des mules, sur le cuir des ballerines. Il riesce nel canto della, direi, del 5 agosto. Proprio ieri sera vedevo sulla BBC un servizio sull'arrivo del Real Madrid in questa tournée asiatica e chiaramente ci sono dei piccoli eserciti di fan che seguono il Real Madrid, ma soprattutto seguono David Beckham, che è al centro di un interesse mediatico che sembra esplodere soprattutto ora che non si gioca, proprio a dimostrare il fatto che Beckham è, come avrebbe detto forse Sandro Ciotti, morto da poco, è un personaggio che nulla ha a che vedere con lo sport, che tutto sommato poco ha a che vedere con lo sport. Ed è interessante il fatto che, insomma, Beckham sia stato pagato di più rispetto al suo valore tecnico, perché è un uomo attraente, perché incarna, diciamo così, l'eroe occidentale, di stampo anglosassone, direi, ma ormai esportato in tutto il mondo come l'unico modello di eroe occidentale. Anzi, di eroe mondiale, direi, simbolo di questo mondo impregnato di benessere, ma anche di paura per tutto ciò che è diverso da sé. Ed è interessante questo fenomeno, cioè, ormai il calcio è governato dai soldi. I soldi non rispondono esclusivamente al valore tecnico dei giocatori, ma anche al merchandising, e quindi praticamente sono i personaggi che devono giocare più che i grandi giocatori. Chiaramente Beckham è un ottimo giocatore, ma una domanda interessante sarebbe, ma Guti, no, che occupa la stessa posizione in campo, avrebbe o non avrebbe diritto a giocarsi il posto? Io, se fossi lui, me ne andrei in un'altra squadra. E un'altra cosa interessante è che tutta la cultura, diciamo, post 1945, la cultura dominante ha fatto sforzi sovrumani per eliminare qualsiasi discriminazione razziale in tutte le forme dell'espressione umana, compreso lo sport, no? Ci ricordiamo le Olimpiadi di Berlino, praticamente dal 45 in poi sono fondamentalmente i neri a dominare tutte le specialità, quindi semmai ci sarebbero abbastanza argomenti per un razzismo alla rovescia. Invece nel calcio quello che succede è questo, cioè, che se sei biondo, gli occhi azzurri e sposi una Spice, tutto sommato tecnicamente nel mondo del calcio di oggi vali di più. E quindi alla fine tutti gli elementi emotivi che avevano nutrito le dittature degli anni 30 e che erano stati subiti dal grande trauma della Seconda Guerra Mondiale rientrano dalla finestra attraverso lo show business, lo spettacolo. Avanti così.